Dimmi se ci sei, no non sai quanto vali. La mente è un silenzio che rompe i rumori. Dimmi, dimmi se ci sei, no non sai quanto vali. Se pensi che pensare ti faccia star fuori. Dimmi se ci sei, no non sai quanto vali. Essere comuni non è essere normali. Dimmi se ci sei, no non sai quanto vali. Assomigliare a te mette a repentaglio me. Non sai quanto vali, butti via il tuo tempo. Resti lì passivo mentre questa vita va, va. E nessuno saprà cosa ti è costato vivere accostato a questo stato inanimato. Dimmi se ci sei o la vita ti divora. Dimmi se ci sei, se difendi la dimora. Dimmi se ci sei, è l'ultima tua ora. Qualcuno vorrà vivere per te ancora. Tu non ti accontenti, dimmi quanto spendi gli stipendi per sentirti almeno trendy. Ad una tavola di assenti, banchetti, ti fingi divertito. Balli assieme a loro, ma quanto sei fallito. Quanto sei finto in un mondo ben riuscito. Quanto butti via per essere gradito. Della festa è rimasto un invito. Un cazzo di vestito ed un falso amico, no. E non lo vedi il tuo problema. Ciò che tu desideri lo compri, ma quanto rasserena. È una mancanza entro te che non è piena. Tu ti senti libero, ma tutto che ti frena. Butti via il tuo tempo, butti via il tuo tempo, butti via il tuo tempo, dimmi se ci sei. Butti via il tuo tempo, butti via il tuo tempo, butti via il tuo tempo, dimmi se ci sei, dimmi se ci sei, dimmi se ci sei. Butti via il tuo tempo, dimmi se ci sei, dimmi se ci sei, dimmi se ci sei. Butti via il tuo tempo, dimmi se ci sei. Nessuno ti ha educato a sapere quanto vali. Conoscere te stesso, crescere le ali. Usare con pienezza i tuoi potenziali mentali. Vivi insoddisfatto fra beni materiali. Cerchi apprezzamento fra denari. Non sai fantasticare con oggetti più banali. Non sai come inventare una serata senza un benedetto portafogli, ma vivi d'apparenza. Io sono il folle tra i fogli che parte. Il bello è già in te, in ciò che fai facendo arte. Lo cerchi fuori sulla terra delle Marche, sul retro di una maglia desolata come Marte. Butti via il tuo tempo, butti via il tuo tempo, butti via il tuo tempo, dimmi se ci sei. Butti via il tuo tempo, butti via il tuo tempo, butti via il tuo tempo, dimmi se ci sei, dimmi se ci sei, dimmi se ci sei. Butti via il tuo tempo, dimmi se ci sei, dimmi se ci sei, dimmi se ci sei. Butti via il tuo tempo, dimmi se ci sei. Banale figlio del moderno, frutto acerbo, spinto dal tuo alito superbo. Viaggi nell'inferno materiale, prigioniero del veleno di una vipera. La bellezza effimera, una bufera libera, non riesce più a toccarti. I piccoli passi di una coccinella in mezzo ai sassi. Non senti più valori, tu collassi. E non li vedi più i colori, sei come uno schiacciasassi. Ancora che ti insegnano a pensare alle scarpe. Ancora questa moda vuole farti da parte. Mandali a fanculo e datti importanza. Si può girare il mondo in ciabatte nella stanza. Butti via il tuo tempo, butti via il tuo tempo, butti via il tuo tempo, dimmi se ci sei. Butti via il tuo tempo, butti via il tuo tempo, butti via il tuo tempo, dimmi se ci sei, dimmi se ci sei, dimmi se ci sei. Butti via il tuo tempo, dimmi se ci sei, dimmi se ci sei, dimmi se ci sei. Butti via il tuo tempo, dimmi se ci sei. Butti via il tuo tempo, butti via il tuo tempo, butti via il tuo tempo, dimmi se ci sei. Butti via il tuo tempo, butti via il tuo tempo, butti via il tuo tempo, dimmi se ci sei, dimmi se ci sei, dimmi se ci sei. Butti via il tuo tempo, dimmi se ci sei, dimmi se ci sei, dimmi se ci sei. Butti via il tuo tempo, dimmi se ci sei.